Parrato Mobile. Aspetta, Emanuele, ascolti, Lupi Lupi, Parrato Mobile. Ce n'è uno, CQ canale 7, qualcuno mi ascolta, Parrato Mobile. Barradi, CQ canale 7. Attento Lugariello, mi accoppi Lugariello. C'è qualcuno al canale 7 PMR, la massa che viene varia. Pronto, pronto, pronto, pronto. Manuele. Torino, Torino, Torino, ci sei. Attento Ginko, mi ascolti qua. Barrato Mobile. E chi è? Sono coso, come si dice? Mocio Vilera, il cuoco, lo chef. E dove sei io? Occa. A Sacro Cuore sono, che ce l'ha messa della sorella e mia suocera, ragazzi, mia moglie non sappia cosa va, è voluta andare, e quindi io sono pure, non c'entro in chiesa. Dove sei? A Sacro Cuore? Sì, a Sacro Cuore, la chiesa di Sacro Cuore, nel piazzale della chiesa del Sacro Cuore col portale. Siamo vicini però. Siamo vicini, infatti arrivi benissimo qui qua. Però se ti sposti ti ascolto meglio. Dove sei proprio? Dentro la macchina. Sto. Dentro? Sì, dentro la macchina, ma non mi senti perché? Adesso sì. Sì, per non stare fuori, capito? Per non stare fuori. E Tonino è entrato? Boh, era sul 10. Questa squillata il cellulare non l'ha giubentissimo. Che c'è sul 10 perché ancora? Prima era sul 10. Ma che c'è sul 10? Ah, ma non ve nessuno. Poco fa stavo ascoltando anche io, c'era una solita portantina. Ha giusarrato tutto, me ne gioca andato. Ma che si rabbia nel luce, di la portante, tanto è. È uno schifo sta diventando, ma non mi interessa a me, quelli vedi, si arrangio. Faccio altro io, faccio altro. Non vanno un cazzo da va, non c'hanno niente da fare. Cazzo si bila in radio a girare a ballare all'acri. Marco dice che arrivava un bel forte, a me mi arrivava Santiago Otto in campagna, magari a Sassari mi arrivava forte, non lo so. Va bene, va bene, va bene che va bene. È sparito, è entrato sul 10. Ho sentito, è rientrato anche Riccardino, ho sentito, poi io me ne sono andato, non la giovana, vabbè, poi quando c'è un sacco di gente così mi sta piacendo poco, mi piace questo a 2, a 3, basta, poi finito. E ne è dato, si intendia, un poco entrava a coso, va, non me la metto in tesigiamma, non ve la Marco Condo. E l'altro? Sì, io li ho sentiti, ma poi c'era una portante, c'era anche Lupo Grigio, Nicola, a piazzare i segni, però arrivava a basso, vabbè, Santiago Nove arrivava. Poi no, ho spento perché dovevo uscire, te l'ho detto, sono qua alla chiesa. Aspetta un attimo, qua. Eia, eia, va bene. Vabbè, ma no, è peso di sì. Grazie, sì. Eia. Sì, era al telefono, ero. E Tonino, ho rintracciato là. Ma che? Deve essere... E fa, arrivo subito, e non la gente subito. Non so, io te l'ho detto, poco fa stavo ascoltando su 10, c'era un po' di gente. Poi chi è uscito, chi è andato, io ho chiuso perché dovevo... Sono qua a Sacro Cuore, te l'ho detto. Uia, se ne abbara noi a casa, per carità. Sì, ma vabbè, odi a me, io sto cercando di inventare, di fare, però finita la festa, penso che domani ce ne rientriamo a casa e via, e torno a routine, come sempre, a girarmi le palle, a chi non aiuta, a mattino che cosa vedo a fare. Stamattina sono andato dal dottore, mi ho fatto prescrivere quelle pastiglie là, e le ho già prese, ne ho prese una a mezzogiorno, adesso una ne prendo stanotte. A mezzogiorno è troppo presto, è una stanotte, ne devi prendere una la mattina, ti mangi qualche cosettina, ti prendi un caffè, fai colazione e poi te la prendi, l'altra la prendi a cena, una colazione e una cena, pranzo e cena è troppo vicino. Ah, così, e la va cosa devo fare? Allora prendila prima di andare a dormire. Vieni tranquillo, prima di andare a dormire, verso le 10, le 11 te la prendi, le 8, le 9 però. No, verso mezzanotte, fanno 12 ore dall'una che l'ho presa. Allora va bene, pensavo la prendevi subito dopo cena, capito? Di solito ceniamo alle 8 e mezza, alle 9, è troppo presto. A mezzanotte mina a colazione, ok, appena ti alzi mangi. Ehi, ma colazione non è vostro manzano, bevo solo il caffè o cra. No, no, allora no, allora continua a fare così e vedi cosa succede. Colazione non è vostro, per quello è che lo prendo a pranzo e a cena. Va bene, a pranzo e a cena, va bene così. Come stai facendo, fai? Così faccio dall'una o anche da mezzogiorno. O se no, boh, subito pure a Londres, mi mangio un panino e dopo me la biglio a lutto di sera. E puoi fare anche così. Devi mangiare qualcosa però, Manuel, perché sennò ti fa mal di stomaco, capito? Perché la stai prendendo senza protezione. Per andar bene ci vorrebbe una protezione, capito? E allora domani faccio così, me la prendo verso le 10:30, mangio qualche panino, verso le 10, fai 10:30, o fai le 11, mezzogiorno, l'una, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, all'inizio la rubiglia la butto. Puoi fare anche così, Manuel. Cosa stai ascoltando? Sento voci. Sul 23, Veggio Maria con Torre Squadra. Ah, già andiamo bene, andiamo. Per carità. E invece nel canale 10 non c'è nessuno? E sul 10 mi sembra che c'è Marcolino, Condor, con altra gente. Sì, vabbè, lasciali va vita. No, io non... No, non ne ho molta voglia di stare in radio di nuovo, non lo so, a me mi succede spesso questa cosa, alla fine mi stacco tutto e ce la piglia in culo. È tutto un casino, per carità. Come sto uscendo, come non sto uscendo, come sta andando, ho messo questa antenna qua, il cazzo, ma va a far culo, vai. Non c'è dialogo perché non c'è gente che affronta discorsi di elettronica, di quello, di quell'altro, capito? E quindi non c'è dialogo. Vabbè, poi c'è anche ciò che gli piace. Io te l'ho detto, se trovo uno che mi fa un'offerta, rivolgo tutto. Mi tengo la parte amatoriale, boh, a me questa 27 me ne è scesa alle palle. Dopo quello che è successo, a me non mi interessa più. È tutto un casino, che frequenza, è tutto un casino, ho acceso poco fa, ha già acceso e vedo abbortante al nastro, ma forse è pure questo abbortante. Sentito a Marco che arrivava a 9:25, non lo so, comunque. Non lo so da che parte, perché tanto vai a fare nomi e non ne comprendi nulla, perciò meglio farsi i fatti suoi, a me poco mi interessa, a me già non mi disturba tanto, non ventro quindi. A me ne manca, ha giubilato, ha giubilato, e ha già steso in PMR, e da voi ha già udato te. Sì, va molto meglio il PMR, infatti mi organizzo bene il PMR, adesso metto un'antenna piccolina, solo per il PMR, me ne sto al PMR. Cazzo, che si antenna una bomba, che si antennino. Con l'antennino, va bene. Io quando compro le cose, quando le regalo, faccio belle cose, non mi do comodezza, capito? Andare, va benissimo. Però per andare bene si deve mettere una bella diamond. Ed è al 100% da bui. È vero, posso comparare, dai, mondo. E poi si deve prendere un veicolare, no? Il portatile. Che col veicolare magari c'è più forte di uscita. Certo che sì. Cosa c'è se un sito portatile, portatilino? Un veicolare lo metti lì e lo usi per il PMR e basta, ma ti va bene tutto. E il portatile è scomodo, tenerlo in casa è scomodo. Usarlo in casa è scomodo. Quello va bene in macchina, se ti devi pushare. Già lo so. Lo saccio. Io adesso appena posso, salgo su, l'alzo 2 metri. 2 metri di tubo che ce l'ho già zingato e la sollevo ancora un altro po', la XC300. No, la XC50 la diamo. C'è una XC50 tu? XC300 non ne hai? Ce l'avevo su a Milano la XC300, cazzo una bomba e le Santen. E che ne vuole 50 euro, Antonello, solo le avrei comprata, perché per 50 euro me la compro nuovo. Ma è cantone, pompugno. Se devo una XC300 ne vuole 50 euro, ma per 50 euro me la compro nuova. Cazzo la bella su internet, bisogna 40 euro. E vabbè, anche se non è Diamond ne compro una diversa marca, ma me la compro nuova. Aspetta che mi sto spostando, Manuel. Aspetta un attimo, suonano la porta, ok. Se non ti rispondo sono in macchina, ok? Ehi, ok.